Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Maria Teresa Cometto. Buonasera a voi. Maria Teresa Cometto, giornalista con oltre 25 anni di esperienza, vive a New York, perché questa sera parliamo di New York e ne parliamo anche con Alessandro Piol. Buonasera Piol. Buonasera. Alessandro Piol è un venture capitalist che lavora a New York con oltre 30 anni di esperienza nel settore tecnologico e hanno scritto insieme il libro Tech and the City, con prefazione di Carlo De Benedetti, Startup a New York, un modello per l'Italia. Un libro in cui si racconta la New York di oggi, la New York degli ultimi anni, in cui c'è stato un profondo cambiamento, in cui le startup, le aziende giovani fatte dai giovani che sono entrate nel grande mercato creato da internet, hanno preso piede e hanno trovato un terreno accogliente. Questa è la realtà di New York adesso, Maria Teresa Cometto? Sì, è una realtà molto poco conosciuta, perfino a New York, e quasi del tutto sconosciuta Italia, ed è per questo che abbiamo trovato un grande interesse, ed era proprio quello che volevamo fare con questo libro: stimolare una discussione su come un modello newyorkese possa essere replicato anche in Italia. A New York ci sono circa un migliaio di start-up che stanno assumendo ingegneri, specialisti del software, gente del marketing, e questo settore dell'industria della città è quello con il più alto tasso di crescita. I posti di lavoro nell'industria tecnologica sono cresciuti del 30% negli ultimi 7 anni, e anche ci sono stati più investimenti di venture capital in città rispetto alla Silicon Valley e al resto d'America negli ultimi 5 anni. A New York sono aumentati del 21%, mentre nella Silicon Valley per esempio sono diminuiti del 6%. Noi raccontiamo come e perché si è sviluppato questo boom, lo raccontiamo dalla storia del primo boom delle dot-com negli anni 90, via via la crescita di diverse generazioni di imprenditori che dopo i successi della prima fase adesso stanno reinvestendo i profitti e la loro esperienza in nuove attività. Raccontiamo anche il ruolo importante del sindaco di New York, Bloomberg, dopo la crisi finanziaria del 2008, nello puntare proprio sulle start-up tecnologiche per rilanciare la città con l'innovazione e l'imprenditoria dei giovani. Ecco, ma questo è avvenuto a New York, e lo chiedo ad Alessandro Piol, perché era una città multietnica, recettiva sotto molti aspetti, in cui c'è una grande borsa come Wall Street e quindi c'era anche un tessuto finanziario e imprenditoriale già preesistente, oppure è avvenuto a New York per altre ragioni che magari noi dovremmo capire, come spiega il libro, appunto per cercare di portare qualcosa anche in Italia. Che cosa di quello che è avvenuto a New York si può portare in Italia? Alessandro Piol. Beh, intanto New York è sempre stata una città di imprenditori, sì, negli ultimi 200 anni, nel senso le industrie, l'industria della finanza, l'industria del publishing, della pubblicità, dei media sono nati a New York negli ultimi 150 anni, sono perciò la città fondamentalmente di imprenditori, però l'imprenditoria tecnologica è una cosa nuova, una cosa che è nata solamente negli ultimi 20 anni, è nata con l'internet, e nel metà anni 90 ci sono state varie società di successo come DoubleClick a New York, che hanno fatto molto bene, e da quella generazione di imprenditori sono nati gli imprenditori di oggi. Una cosa importante da notare è che per avere un ecosistema imprenditoriale che funzioni bisogna avere una certa maturità dal punto di vista degli imprenditori, e allora il fatto che sia già la seconda generazione aiuta. Ecco, c'è una notazione interessante che fa Carlo De Benedetti nella sua introduzione a questo libro, e che dice: molto diffusa è la pratica del give back, del restituire agli altri e alla società qualcosa che si è ricevuto nella fase di costruzione della propria fortuna imprenditoriale. Un atteggiamento solidale così pervasivo da aver bisogno di organizzazioni che si occupano di facilitare questo tipo di volontariato. Una condizione favorevole, scrive Carlo De Benedetti, che in Italia non esiste. Ecco, c'è quindi, Maria Teresa Cometto, anche una logica, diciamo, di condivisione, di solidarietà in queste start-up giovanili, in queste nuove imprese americane? Assolutamente sì, direi che uno degli ingredienti del successo oggi della industria tecnologica a New York è proprio questo senso della comunità, dove tutti insieme, i finanziatori, i giovani imprenditori, i manager dell'amministrazione comunale, le università, si fanno insieme per lo sviluppo della comunità e ognuno fa la propria parte. Un grosso esempio è questo progetto enorme del nuovo campus universitario Cornell New York Tech, che sorgerà su Roosevelt Island, che costerà 2 miliardi di dollari, e tutti questi capitali sono forniti da privati, alcuni per esempio come il miliardario che ha inventato la catena dei duty free shop, ha dato una buona fetta di soldi, altri come l'angel investor David Rose, lo stesso ha contribuito, e poi soprattutto ci sono i mentori, ci sono gli imprenditori veterani e i finanziatori veterani che danno il loro tempo e le loro energie e le loro idee per sviluppare questa comunità. Un altro esempio è Fred Wilson di Union's Square Ventures. Lui addirittura ha contribuito a fondare una nuova scuola superiore, l'Accademia del Software, dove fin dall'età dei teenager viene insegnato da quest'anno a scrivere programmi software, e questo per rispondere al grosso problema del bisogno di tecnici e di ingegneri di cui tutte queste start-up a New York oggi hanno fame. Ecco, in questa prospettiva il problema e anche l'opportunità, forse lo chiedo ad Alessandro Piol, è il fatto che questa rivoluzione di internet che stiamo vivendo negli ultimi 10-15 anni non è proprio una realtà fine a se stessa, ma coinvolge un po' tutte le dimensioni economiche, appunto dalla finanza alla pubblicità al marketing, allo stesso modo di fare impresa. Quindi è qualcosa che può modificare completamente la realtà economica, e in questo le start-up possono specializzarsi, nell'offrire soluzioni nuove a problemi vecchi, Alessandro Piol. Questo è senz'altro vero, infatti una delle cose che notiamo a New York, più che a Silicon Valley o a Boston, che le start-up sono nate intorno a quei settori che già esistevano, appunto il settore della finanza, il settore della pubblicità, il settore dei media, e hanno appunto sto cercando di migliorare quelle settori, quelle industrie, per renderle più efficienti, per cambiare le cose, farle in modo più moderno, farle in modo più tecnologico. Molte di queste start-up fanno quello. Quella è la grossa differenza, tra l'altro, con Silicon Valley, dove è un ambiente prettamente tecnologico per tecnologia. E quella sia anche la forma giusta per altri paesi e altre città, per esempio in Italia, dove sono competenze incredibili in certi campi dal punto di vista del design, del manufacturing, eccetera, ci possono essere delle start-up che nascono per ottimizzare questi tipi di settori. Ecco, vorrei chiedere a Maria Teresa Cometto, che conosce molto bene l'Italia, se Milano può essere la New York italiana in questa prospettiva. Secondo me assolutamente sì, intanto perché ha alcuni settori, alcune attività in città che sono molto simili a quelle di New York, pensiamo alla finanza con la borsa Piazza Affari, pensiamo alla moda, pensiamo alla pubblicità e all'editoria, sono tutte industrie forti sia a New York sia a Milano. E poi direi che c'è una storia, una tradizione di imprenditoria lombarda e milanese, e nella presentazione, negli incontri che abbiamo fatto a Milano nelle settimane scorse a parlare del nostro libro, abbiamo visto che c'è molta voglia di fare e c'è anche entusiasmo per queste nuove iniziative. Credo che ci vorrebbe forse un catalizzatore, ci vorrebbe magari un Bloomberg milanese per far scattare la scintilla e per permettere appunto che tutte queste idee possano mettersi insieme e portare a uno sviluppo dell'imprenditoria giovanile anche a Milano. Ecco, Alessandro Piol, molto rapidamente, della stessa idea: in Italia ci potrebbero essere le condizioni per replicare, anche se in piccola parte, quello che è avuto a New York? Senz'altro, chiaramente in Italia ci sono anche altre barriere, altri ostacoli che devo superare, però se già guardiamo ai successi che abbiamo visto negli anni 90, per esempio, tipo Tiscali, noi eravamo a Cagliari recentemente e il numero di imprenditori, di ingegneri, di gente che aveva idee nuove da sviluppare era molto alto, anche perché molti di questi venivano fuori da Tiscali. Lo stesso può succedere con società come Yux, imprenditoriali che hanno avuto molto successo e possono generare una nuova generazione di imprenditori. Ecco, speriamo che sia questa la prospettiva di affrontare appunto con una nuova passione, con una ritrovata capacità anche i problemi di fondo di un'economia che ha bisogno appunto di trovare nuove strade. grande bisogno di, in Italia soprattutto, di crescere, di competere, perché poi la passione, la forza imprenditoriale indubbiamente in Italia non mancano. Grazie di questa esperienza, grazie di questo libro. Ricordo Maria Teresa Cometto, Alessandro Piolla hanno scritto Tech and the City, con prefazione di Carlo De Benedetti, Startup a New York, un modello per l'Italia. Il libro è edito da Guerini e Associati, sono 252 pagine per 22 euro. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che i programmi di Radio 24, così come le repliche di questo programma Economia in Pagina, possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.